La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, un buon sabato pre-Oscar a tutti da Franco D'Assisti. Questa è La Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24. Una settimana bella densa di bei film e anche di attesa, perché nella notte appunto fra domenica e lunedì, in realtà nella mattinata italiana di lunedì, verranno assegnati i premi Oscar, di cui esce in Italia questa settimana l'ultimo dei grandi candidati, chiamiamoli così, ovvero Fences, Barriere con Denzel Washington. Ne parliamo veramente fra un attimo. Prima fatemi ricordare che sarà anche una puntata piena di ospiti, perché fra poco sarà con noi Massimiliano Bruno per parlare del suo Beata Ignoranza, la commedia con Marco Giallini e Alessandro Gassman, che è nelle sale italiane. Poi ci sarà Ezio Greggio con noi, perché parleremo del Festival della Commedia di Monte Carlo. Avremo una finestra sul musical The Bodyguard, che ha esordito in questi giorni a Milano, con Karima nei panni di Whitney Houston. Insomma, puntata molto ricca. Giocheremo come sempre insieme per farvi vincere i più bei film del periodo in Blu-ray. E allora cominciamo con Barriere, cominciamo con Denzel Washington, grandissimo protagonista in questo che è un testo fondante della cultura afroamericana contemporanea, un testo teatrale che diventa film con la regia dello stesso Denzel Washington. Tu non mi ascolti, sto cercando di spiegartelo nel modo migliore che io conosco. Non è facile per me ammettere che sono rimasto nello stesso posto per 18 anni. E io ci sono rimasta con te! Sono rimasta qui accanto a te, Troy. Ho una vita anch'io. Ho dato 18 anni della mia vita per restare nello stesso posto accanto a te. Non credi che anch'io volessi altro? Non credi che avessi sogni e speranze? È la mia vita, allora, è io, allora! Uno dei momenti di grande tensione drammatica, ce ne sono tanti in questo film, fra Denzel Washington e Viola Davis, entrambi nominati all'Oscar, a mio modo di vedere entrambi meritevoli dell'Oscar, in questa storia di un padre di famiglia che per combattere le discriminazioni razziali nella Pittsburgh degli anni 50, momento molto difficile, molto duro, lui che fa il netturbino, raccoglie la spazzatura dei bianchi, come dice, per dare un futuro alla sua famiglia, un futuro dignitoso, una famiglia che ha la sua casetta, dove la madre, appunto Viola Davis, cerca di far stare tutti nel massimo della dignità. Però per far questo padre, diciamo che forse è più realista del re e tarpa le ali soprattutto tutto a un figlio che vorrebbe volare verso il baseball. Avete sentito, nella clip si parlava di questo, il padre di fatto glielo impedisce per paura che possano arrivargli dei no dovuti a motivi razziali, e quindi non giocare la partita perché se no la perdi, e il figlio chiaramente dice fammela giocare e vediamo se invece la perdo. È uno dei personaggi, è uno dei duelli, mi verrebbe da dire, che animano questo bellissimo film di derivazione teatrale, e un impianto che si vede anche nel film, ma dove contemporaneamente riesce a esserci una quantità di cinema e soprattutto di recitazione davvero straordinaria. Chiedo se è d'accordo con l'analisi Boris Sollazzo, che è come sempre in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, sono pienamente d'accordo, perché c'è un gusto polaschiano a livello cinematografico in questo film, perché c'è una fortissima potenza narrativa che alberga anche nella macchina da presa, che pure si muove poco, costretta di fatto in un cortile, perché qui il ruolo del palco sta in un parco, volendo giocare con le parole, cioè su questo piccolo cortile, su queste fences, queste barriere che altro non sono che questo recinto che Viola Davis chiede a Denzel Washington per tutto il film, dovrebbe chiudere probabilmente al mondo, perché lui si è chiuso in un odio che ha assunto in se stesso per averlo subito per anni, per decenni, in quanto nero, e lei invece per proteggere quanto ha di più prezioso, la sua famiglia, per cui ha fatto tanti sacrifici. Cioè c'è chi si chiude dentro e chi invece vuole in qualche modo chiudere il fuori in questo film. Erroneamente Barriere è stato messo insieme a tutti gli altri film sulla segregazione razziale che hanno avuto molto successo nelle candidature agli Oscar. Di fatto qui c'è secondo me una visione molto più larga, perché Denzel Washington è un personaggio decisamente ambiguo e a livello di recitazione è pazzesco, perché chiaramente se chiudi in un confine molto stretto dei bravissimi attori, loro sono costretti da una parte a dare una prova straordinaria e dall'altra, se sono bravi, la danno, perché hanno per sé la luce di quel film. Di sicuro di tutti questi film e documentari che sono all'Oscar e che sono a tema razziale, questo è il più bello, il più potente e anche il meno ideologico, perché contrasta proprio l'ideologia dell'odio per andare oltre. Denzel Washington erano anni che non lo vedevamo così in forma, Viola Davis è in costante crescita, forse è stata scoperta troppo tardi, ma davvero qui nessuno sbaglia un colpo e questa forse è la forza di un film che poteva soffrire la sua natura teatrale e che invece la fa diventare la sua più grande forza. Ne viene letteralmente esaltato, peraltro... Attenzione a questo film, perché ci sono pronostici. Denzel Washington ha già vinto, per esempio, alcuni premi portandoli via a Ryan Gosling di La La Land, che forse in La La Land è quello che ha meno probabilità di vincere il suo premio. Io penso che sia giusto premiare La La Land come miglior film di quest'anno, perché è il film che ha, come dire, scosso un pochino tutti i mercati cinematografici del mondo. Trovo che Denzel Washington sia giustamente il destinatario dell'Oscar per l'interpretazione maschile. Attenzione anche ad alcuni outsider, per esempio c'è stata la vittoria agli Screen Actor Guild Awards di Hidden Figures, Il diritto di contare, come miglior film. Quindi secondo me sarà un Oscar forse meno prevedibile di quello che potevano dire le 14 candidature alla La Land. Boris, in 10 secondi, il tuo film, il tuo Oscar di quest'anno. Beh, sicuramente La La Land, però come dici tu è molto probabile che invece un Oscar che è sempre più abituato da, se vogliamo, il paziente inglese poi a non avere più il l'asso piglia tutto, e quindi non mi stupirebbe, come dici tu, se a livello di interpretazioni potesse uscire a distanza Barriere, non mi stupirebbe che Mel Gibson potesse piazzare la campata con Hacksaw Ridge. Sono molto d'accordo con te, dobbiamo attenderci molte sorprese da questa edizione degli Oscar, perché le 14 candidature di La La Land forse hanno drogato le previsioni, però vedremo. Spero comunque che La La Land vinca il miglior film. E con il film, direi, anche Emma Stone, che trovo assolutamente fantastica in questa interpretazione. Linea alla viabilità, fra poco torniamo e andiamo avanti con le grandi uscite di questa settimana, da Jackie a Trainspotting 2, fra poco. La rosa purpurea. Signora Kennedy, si sente bene? Sono Larry. Datemi ancora un momento. Tutto il tempo che le serve. Stanno aspettando. Io giuro solennemente. Io giuro solennemente. Di adempiere con totale lealtà. Di adempiere con totale lealtà. Ai doveri di Presidente degli Stati Uniti. Ai doveri di Presidente degli Stati Uniti. E allora, dopo l'agguato di Dallas, l'agguato mortale per Kennedy, per il presidente americano Kennedy, e forse anche uno degli agguati che hanno segnato uno svincolo, una sliding door della storia contemporanea, c'è una donna che soffre una perdita grave già di per sé, perdere il marito così in giovane età, soffre il fatto dell'aspetto traumatico di questa perdita, averlo visto letteralmente esplodere, e scusate la crudezza, sotto i suoi occhi, con quel gesto disperato di tenergli la testa, che è stato immortalato dalle telecamere, dalle fotografie che hanno fatto poi il giro del mondo, e soffre un'altra crudeltà, un'altra tortura psicologica, quella giovane donna, Jacqueline, cioè quella di passare 2-3 giorni davvero d'inferno tra il momento della morte del marito, il rientro a Washington e il funerale. In questo lasso di tempo si inserisce un fuoriclasse del cinema mondiale come Pablo Larraín, i cui film ultimamente sono un capolavoro dietro l'altro. Pensate a Noi giorni dell'arcobaleno, pensate a Il Club, pensate al recente Neruda. E ci racconta quella donna, non ci racconta tanto i fatti di Dallas, non è JFK, è Jackie. È Jackie, con gli occhi, col volto, con la straordinaria intensità di una Natalie Portman, candidata all'Oscar anche lei. È una donna che è stata dipinta come fragile e addirittura futile e che improvvisamente deve dimostrare, e la dimostra, tutta la sua forza. È un film su una trasformazione, Boris, ti chiamo in causa perché mi sembra quasi una trasposizione storica del Cigno Nero, non so come dire. È una donna che deve trovare dentro se stessa un'anima di ferro per resistere a un urto della vita di una forza tale da sbaragliare ogni tipo di resistenza. Ma è ardito ma estremamente calzante il paragone, perché è una donna sicuramente fragile, inadeguata al ruolo che deve ricoprire. Dall'altra parte, appunto, trova quella forza nell'eccezionalità, proprio come succede al Cigno Nero, e ne esce ingigantita, ma in qualche modo anche trasformata e deformata. È un film molto interessante, secondo me, sotto molti piani di lettura. Da una parte ci conferma che Natalie Portman è un'attrice straordinaria, perché qui viene sottoposta a una performance massacrante. Pablo Larraín non la lascia un attimo, le impone dei primi piani durissimi, difficilissimi da reggere, in sceneggiatura pone di fatto due atti contrapposti, quella di un'intervista alla Frost Nixon in cui il giornalista è più che cinico, diciamo, nel voler fare l'autopsia di questo delitto e del suo dolore, e dall'altra questi flashback di questi quattro giorni infernali. C'è qualcosa che non convince del tutto questo film, non è un giudizio negativo, intendiamoci. Io credo che Jackie sia il meno migliore dei film di Larraín. È straordinario sicuramente l'impianto scenico, è molto forte da parte di Pablo Larraín il tentativo di non evitare la rappresentazione di una morte che è stata vista oltre il limite del sopportabile, sia perché è stata portata in scena molte volte, sia perché il filmato di Zapruder è nel nostro cervello quasi come un link inevitabile. E dall'altra parte però è anche molto intelligente puntare tutto su uno sguardo periferico, che è quello di Jackie, quello che nessuno sostanzialmente si è interessato a vedere se non per motivi di gossip. Quello che viene è un film che a volte sembra troppo di scuola, ma a mio parere perché sono troppo bravi tutti, cioè troppo bravo il regista, che è perfetto e che perde quella potenza dell'imperfezione che aveva negli altri film, e perché Natalie Portman non ha davvero nessuna sbavatura. La cosa più interessante è che Larraín a Hollywood è sempre lo stesso, cioè un uomo che continua a raccontarci l'autopsia di un ideale, sia la Chiesa, sia il socialismo di Allende, sia la rivoluzione kennediana, è sempre la stessa storia, ma raccontata sempre in maniera straordinaria. E questo era Jackie di Pablo Larraín nei cinema. Noi adesso apriamo, prima di parlare di Trainspotting 2, una piccola finestra sul nostro game. Come sempre, un film di solito misterioso. Questa settimana non dovete tanto indovinare il film, ma dovete rispondere a una domanda su questo film. Perché essendo il film uscito sempre e solo in tedesco, non essendo mai stato doppiato in italiano, sarebbe stato molto difficile chiedervi di indovinare di che film si tratta. Allora ve lo diciamo noi. Si tratta di un capolavoro del primo Wim Wenders, che si intitolava Nel corso del tempo, e di cui vi facciamo ascoltare una clip. Ich sehe mich eigentlich zum ersten Mal als jemanden, der eine Zeit hinter sich gebracht hat. Und dass diese Zeit meine Geschichte ist. Ecco, avete sentito alcune frasi in tedesco, chi lo capisce chiaramente avrà anche intuito, un film straordinario di Wim Wenders, un film sul cinema, un film sulla passione per il cinema, sulla storia del cinema. E allora io vi chiedo, di questo film fa parte di una trilogia di Wenders, dovete dirci quali altri due film componevano la trilogia in cui era inserito nel corso del tempo. Scriveteci alla Rosa Purpurea a @radio24.it con il vostro indirizzo, con la risposta esatta. Più tardi vi riproporremo la domanda per darvi anche il tempo magari di dare un'occhiatina ai vostri libri o a qualche sito internet. Fra poco ci torniamo quindi su Nel corso del tempo. Adesso dedichiamoci al ritorno di un film amatissimo 20 anni fa, si intitolava Trainspotting. Ecco il numero 2. Non posso ricascarci, devo disintossicarmi il fisico. Aspetta, disintossicarmi il fisico? Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Non è mandarla via dal corpo il problema, è mandarla via dalla testa. Sei un tossico. Credi che non l'ho già sentito dire 100.000 volte, Mark? Hai altri 12 passi per me, compagno? Allora resta dipendente. Dipendente da qualcos'altro. Tipo correre fino a vomitare? Sì, o qualcos'altro. Devi incanalare l'energia, la devi controllare. La gente prova di tutto. Tu come l'hai incanalata? Andando via. Boris, una clip di Trainspotting 2, 20 anni dopo, di solito si dice molte cose sono cambiate, stavolta possiamo dire molte cose sono rimaste uguali, a partire dal regista Danny Boyle, da un cast che è diventato nel frattempo altisonante, a partire da Ewan McGregor. Ti chiedo, c'è anche, come dire, lo stesso afflato, lo stesso stupore, la stessa dirompenza che 20 anni fa fecero di Trainspotting un caso mondiale? No, è completamente diverso, e forse era anche giusto così, a partire da quello che dicevi tu, quei ragazzi che erano una sorpresa, quello era un film indipendente, costava 2 milioni di euro, che arriva a incassarne più di 200, nel frattempo c'è chi è diventato Cavaliere Jedi, è diventato un divo della TV, chi ha cambiato completamente faccia ed è rimasto un caposaldo della propria cinematografia. Dall'altra parte c'è un Danny Boyle che da cattivo ragazzo è arrivato con The Millionaire a vincere l'Oscar con una favola con Happy End. Intendiamoci, Trainspotting 2 non andava fatto, anche se l'abbiamo chiesto tutti, soprattutto quelli della mia generazione che erano adolescenti quando hanno visto Trainspotting e ne hanno fatto un caposaldo del proprio immaginario. E però bisognava forse resistere a questa tentazione, perché io me ne sono reso conto forse in maniera anche piuttosto sconcertante nel rivedere Trainspotting su Iris qualche giorno fa, che quello è un film invecchiato male, o anzi forse sono invecchiati male gli spettatori, perché se Trainspotting viene visto da un diciottenne adesso ne subirà la stessa fascinazione e repulsione, e noi nel frattempo che eravamo adolescenti allora invece siamo cresciuti, e sono cresciuti anche i protagonisti di questo film, e non parlo degli attori, parlo proprio dei protagonisti, cioè l'età è arrivata, le conseguenze delle loro azioni si sono appoggiate sulle loro spalle, e queste spalle sono più curve, sono più pesanti. Io trovo che sia interessante, sia circoscritto probabilmente agli amanti del primo, le citazioni del primo film sono tantissime, non tanto in termini di secondi quanto in termini di presenza, in termini musicali, in termini di scrittura. Droga ce n'è poca, nostalgia ce n'è tanta, temo solo che Trainspotting 2 parlerà solo agli spettatori che avevano la stessa età dei protagonisti quando uscì Trainspotting. Volendo fare un paragone completamente diverso, è come se Verdone cercasse di rifare Compagni di scuola. Un Compagni di scuola 2 non ha senso, e forse neanche un Trainspotting 2 ha senso. C'è il tipo del servizio in camera che entra nella stanza e trova Georgie Best sdraiato sul letto con due modelle di Playboy. In tre nel letto, champagne, qualche pista di neve, ci sono delle banconote. Sono sdraiati sulle banconote. Sdraiati su soldi? Sì. Perché? Non lo so, perché è un sacco di soldi, o aveva un sacco di soldi a quel tempo almeno. Il cameriere entra nella stanza e vede questa scena che vi ho descritto e dice: George Best, il più grande calciatore di tutti i tempi. Sì, il più grande calciatore di tutti i tempi. Devo chiederti, quando è andato tutto storto? Trainspotting 2, linea adesso alla regia. Fra poco ci raggiunge Massimiliano Bruno per parlare di Beata Ignoranza. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele da renetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea continua. In questa terza parte ci occupiamo di un film italiano, di una commedia italiana arrivata nelle sale questa settimana, che si intitola Beata Ignoranza. Il nostro caro Ernesto abita in questo bel appartamentino del quartiere Nomentano che sembra arredato da una vecchia. Tra i suoi scaffali troviamo volumi di Pirandello, Kafka, Becker. Becker era un tennista. Sì, vabbè, uguale. Seguitemi, una locandina di Zabrinsky Point, dove notiamo un uomo che abbraccia una donna. Cosa che il nostro Ernesto non fa da tanti anni. Ma una costante di questa casa è questo vecchio televisore con tubo catodico, pensate, che viene acceso solo una volta all'anno per il discorso del Presidente della Repubblica. Così Filippo, Alessandro Gassman, presenta Ernesto, Marco Giallini, professori contro, messi contro dall'essere molto molto diversi, ma anche dalle tecnologie che permettono una loro litigata abbastanza futile di finire online e di diventare immediatamente virale. È una commedia firmata dall'amico e regista Massimiliano Bruno, che è in collegamento con noi. Ciao Max! Buongiorno, vi parlo da una Roma uggiosa oggi, purtroppo. Vabbè, insomma, l'uggio evidentemente va anche da quelle parti, non è solo dalle nostre. E poi, come si dice, guarda, di solito quando un po' piove per noi cinematografari è positivo, perché vuol dire che la gente va più al cinema, speriamo bene. Esatto, infatti il meteo è fondamentale. Io ti voglio chiedere innanzitutto come ti è venuta in mente questa cosa, cioè perché hai voluto fare un film dove le generazioni, non sono tanto le generazioni a scontrarsi nel nome o in nome delle tecnologie, dell'uso dei social, eccetera, ma la stessa generazione, quella di due professori così diversi che a un certo punto si scambiano la vita. Ma guarda, io sono partito da un post che ho scritto su Facebook 4 anni fa, dove mi lamentavo di non riuscire più a leggere un romanzo, di andare meno al cinema, a teatro, di comunque fare meno vita sociale. Ed in effetti quello che è accaduto con l'avvento dei social è che, mettendoci il nostro pigiamino da casa tra cellulare, tablet e PC, spesso e volentieri passiamo le nostre serate a chattare, oppure a vederci una serie americana su Netflix, oppure a vedere un film su Sky, e si è perso quel gusto del baretto, della chiacchiera con l'amico a cellulare spento, della passeggiata nella villa, del perdersi in un romanzo dedicandogli la serata. E un pochino mi è venuto in mente di scrivere questo post. Ho scritto questo post e sotto ho avuto centinaia di messaggi di approvazione, cioè tutte le persone che avevano, con cui ero amico su Facebook, dicevano: cazzo, pure io, ma è un problema pure per me, ma come si fa? E ho detto: questo argomento probabilmente quindi è un buon argomento. Quindi il film non tratta uno scontro generazionale tra giovani addicted e non giovani, ma racconta il quanto trasversalmente in tutte le età la rete in qualche modo ci ha cambiato il tipo di comunicazione. E quindi mi è venuto in mente, insieme a Herbert Simone Paragnani e a Gianni Corsi, di scrivere due personaggi che fossero acerrimi nemici. Uno, quindi, completamente assuefatto alla rete, Twitter maniaco, Facebook rimorchione, che è Alessandro Gassman, e l'altro vetusto, un po' anziano, che ha ancora un vecchio Nokia del 95 e che non ha mai comprato un computer a casa sua, che è Marco Giallini. Ovviamente i due litigheranno a morte e se ne vedranno delle belle. Il film, grazie al cielo, è venuto molto divertente. Assolutamente. Ecco, è anche interessante, Max, che la gente si lamenti della rete e dell'invadenza dei social sui social. Cioè, questa cosa qua, questo cortocircuito pazzesco, no? Ma infatti sai che cosa sta avvenendo che è molto interessante? Che chi sta molto con i social pone come problematica lo stare molto sui social. E quindi vedi gente che si sta 10 ore al giorno e che dice no, però ne voglio uscire, non basta, non tremo più. E poi ci sono quelli che invece dichiarano di non starci sui social e che invece sanno tutto. Tu vai a cena e parli con un amico che non c'ha manco un profilo e che ti dice ma ho letto su Twitter, tu dici scusa ma tu non sei l'ideologo del non stare in rete, invece sai tutto. Cioè, nel senso, sembra sempre che ci manca quello che non abbiamo, quindi quelli che stanno troppo in rete sognano di farsi una passeggiata senza cellulare e quelli che non stanno in rete sognano di sapere che cosa ha detto quel divo su Twitter. Fa ridere sta cosa. Assolutamente. Allora, abbiamo ascoltato prima la presentazione di Ernesto da parte di Filippo, sentiamo quella contraria. Filippo subappitta due camere a questi lobotomizzati, così in pratica non paga la sua stanza. Loro sono Gianluca e Costanza, sono drogati. No, perché tu adesso li vedi così, ma questi sono capaci di uscire con delle genialate, soprattutto dopo che hanno fumato, attenzione. Sì. Quella è la padrona di casa. Ciao. Con la quale Filippo si accoppia ipocritamente un paio di volte al mese per non farsi alzare il canone d'affitto. Guarda che c'è su. Come potete vedere, Peter Pan è ancora vivo e abita la bambina. E allora, Boris Sollazzo, ci hai ascoltato e adesso è un minuto, un minuto e mezzo per collocare criticamente nell'opera del maestro Max Bruno questo film. Beh, intanto ci tengo a dire che Beata Ignoranza è un film che va bene anche quando non piove, perché è partito subito ottimamente con gli incassi. Detto questo, io amo molto il cinema di Max, anche se sembra brutto dirlo in sua presenza telefonica, perché ha il pregio, il coraggio di provare sempre qualcosa di nuovo. In 5 film non ha mai fatto un film simile all'altro, che soprattutto per un autore di commedie, anche se il genere della commedia gli sta stretto, è un pregio straordinario. In questo caso fa un lavoro di rivoluzione del linguaggio, partendo da citazioni illustri come quella di Scola, in C'eravamo tanto amati, che è davvero molto interessante, perché lo fa non rifiutando la grammatica di ciò che parla, la grammatica dei social. Non è la prima volta che vediamo film sulla sovracomunicazione attuale, no? Penso a Perfetti Sconosciuti, a Che vuoi che sia, ma è forse la prima volta che un regista utilizza visivamente la grammatica visiva di quel mondo, e lui lo fa con sguardi in camera, con i protagonisti che parlano al pubblico, poi torna a un modo più classico di fare commedia, poi di nuovo rovescia l'ottica di regia per raccontarla da parte di chi magari non è coinvolto nel mondo dei social. E quindi devo dire, Beata Ignoranza ha due pregi: uno, di essere un film che dà un intrattenimento straordinario, e dall'altra di essere un film che nel suo piccolo è rivoluzionario. Beh, insomma, adesso la domanda successiva a Max Bruno è: quanto hai pagato Boris Sollazzo per queste dichiarazioni? Sono 4,50 euro diciamo cash e 3 punti nel fantacalcio. Beh, insomma, via via con poco, dai, alla fine via via con poco. Senti, poi io vorrei anche spezzare una lancia in testa a Giuseppe Ragone e Malvina Ruggiano, perché quella coppia lì a me mi ha fatto molto molto ridere, soprattutto Giuseppe Ragone nel tossicone intelligente, vulcanico e pieno di problem solving, come dicono quelli che sanno l'inglese. Sono molto orgoglioso del successo personale di Giuseppe Ragone, perché è un allievo dei miei laboratori teatrali, ci lavoro da tanti anni, mi commuove il fatto che lui abbia fatto questa uscita nazionale e dove è di fatto il personaggio più divertente del film. Max, Giallini, invece Gassman, diceva prima Boris, coppia di fatto, ormai, come dire, li abbiamo sdoganati, vivranno insieme probabilmente d'ora in poi, cioè funziona una meraviglia. Io credo che loro sono l'equivalente di Gassman e Tognazzi di 40 anni fa, quando Gassman e Tognazzi fecero i mostri e quei film insieme, ne hanno fatti più di uno. Secondo me loro sono quel tipo di roba lì, cioè, perché sono degli attori e non dei comici, diciamo, non nascono come comici televisivi, ma come attori, che però si sposano alla perfezione. Gassman è regolare, super studioso, Giallini più istrionico, improvvisatore, e insieme costituiscono, secondo me, una coppia esplosiva. E allora, beata ignoranza nei cinema italiani, grazie a Massimiliano Bruno per essere stato con noi, ci risentiamo presto. A presto, un bacione a voi, grazie, ciao Franco. E salutiamo anche Boris Sollazzo, ciao Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora passiamo al nostro gioco. Il film non misterioso di questa settimana è Nel corso del tempo di Wim Wenders. La domanda era a quale trilogia di Wim Wenders appartiene. Chiaramente dovete dirci anche quali sono gli altri due film di questa trilogia di cui fa parte, appunto, Nel corso del tempo. Vincitori annunciati la prossima settimana. Scriveteci però la vostra risposta alla Rosa Purpurea @radio24.it. E torniamo a parlare di commedia, l'abbiamo fatto con Massimiliano Bruno, lo facciamo adesso con un ospite davvero gradito, Ezio Greggio. Perché? Perché il 28 di febbraio, la settimana prossima, parte il Monte Carlo Festival della Commedia, che è giunto alla 14ª edizione, che è diretto, presieduto proprio da Ezio Greggio, e che quest'anno avrà davvero un parterre importantissimo fra Michael Radford, il regista del Postino, ricorderate l'indimenticato ultimo film di Troisi, a John Landis, a Monica Bellucci. E allora salutiamo Ezio Greggio, ospite qui della Rosa Purpurea. Ciao Ezio. Ciao, ciao Franco. E beh, insomma, grazie innanzitutto di questa presentazione che, voglio dire, fa arrossire anche Pippo Baudo e Daniele Piombi, quindi sono grazie di due questa mostri sacri. Presentazione. E confermo che siamo alla 14ª edizione di un festival che è partito per sdoganare questo genere della commedia che non veniva mai considerato negli altri festival, e invece piano piano siamo riusciti a imporre non solo il nostro, ma insomma proprio il genere commedia anche in altre manifestazioni che hanno aperto finalmente i battenti. Ecco Ezio, ho visto che avete però anche ispessito, diciamo così, il parterre, cioè qui non è solo commedia, non è solo comicità, qui è cinema con la C maiuscola tutto tondo, perché quando prendi un personaggio come John Landis, che ha scritto e diretto Il principe cerca moglie, The Blues Brothers, Una poltrona per due, Animal House, forse, come dire, si sta parlando a un pubblico che a questo punto va anche oltre quello della commedia e della comicità. Assolutamente sì, perché il nostro festival ha la competizione e quest'anno abbiamo film che arrivano da tutti i paesi del mondo, è un festival internazionale e quindi in competizione ci sono solo commedie. Pensa che quest'anno avevamo in lizza oltre 100 commedie da tutto il mondo, abbiamo fatto questa selezione, ce ne sono adesso una decina finali che si contenderanno i vari premi. Poi logicamente parliamo di cinema, ci sono masterclass che facciamo con gli studenti, ci sono incontri con i registi, con gli attori e quindi nella serata finale, poi del 5 marzo al Grimaldi Forum, premiamo sia i film in concorso ma diamo anche premi alla carriera a questi grandi nomi che tu hai citato, primi fra tutti, come dicevi tu, John Landis, Costa Gavras, ma avremo anche questo grande compositore, vincitore di più Oscar, che è Michel Legrand, che è un grande compositore francese. Avremo premi alla carriera anche ai nostri grandi come Enrico Montesano, daremo un premio all'Exploit, a Ficarra e Picone per l'ora legale. Insomma, sarà veramente una bella serata che poi tra l'altro andrà in onda su Canale 5 dopo qualche giorno in seconda serata. E quindi davvero un gran festival. Come ti sembra che stia, Ezio, la commedia italiana in questo momento? Come la valuti? Ma io penso che la commedia italiana sia uno dei punti di riferimento importanti per la cinematografia italiana, parlando sia a livello di incassi che a livello di qualità. Abbiamo grandi autori e grandi attori che realizzano bellissimi film. Noi quest'anno abbiamo tra l'altro in concorso Orecchie, che è sicuramente uno dei film più attesi, e credo che sia molto viva e poi i risultati economici dimostrano che spesso e volentieri la commedia poi fa da supporto ai produttori, ai distributori per far uscire magari opere che hanno più complicazioni, che magari hanno più difficoltà poi a trovare il rapporto con il pubblico. Ti faccio un'ultima domanda: il cinepanettone è morto o lotta insieme a noi? Ma io insomma ho smesso di farli parecchi anni fa per fare i film che mi divertiva fare, quindi non solo quelli che divertiva fare Aurelio. Credo che ci sia spazio per fare dei film divertenti natalizi, sapendo che uno va a vedere un paio d'ore di spettacolo spensierato e che di sicuro non ti fa scervellare per capire la trama. Credo che un pochino abbiano fatto il loro tempo, questo certamente. Però ci sono validi autori, credo che oggi produttori e distributori debbano anche chiedere a chi scrive le storie un impegno un po' più ampio, ecco, per far sì che a Natale non sia sempre la solita polpetta riscaldata. E allora grazie a Ezio Greggio, appuntamento a Monte Carlo, al Monte Carlo Film Festival della Commedia dal 28 febbraio al 5 marzo. La Rosa Purpurea peraltro ci sarà, raccoglierà interviste e ve le proporrà nelle prossime puntate, ma grazie davvero per essere stato con noi, al super direttore, anzi direi al mega direttore, per usare un termine caro alla commedia italiana, Ezio Greggio. Grazie Franco, un salutone a voi tutti. E allora, preparato di commedia con Massimiliano Bruno, con Ezio Greggio, adesso linea alla viabilità, fra poco invece parliamo di musical, sarà con noi Karima per raccontarci The Bodyguard. La rosa purpurea. Voce inconfondibile e straordinaria di Whitney Houston in uno dei successi planetari del secolo scorso, potremmo dire, che è appunto anche la pietra miliare di un film degli anni 90 che si intitolava The Bodyguard, lo ricorderete, con la stessa Whitney Houston e con Kevin Costner, che adesso diventa musical con esordio proprio questa settimana al Teatro Nazionale di Milano, con un cast che vede nei panni che furono appunto di Kevin Costner e Whitney Houston rispettivamente Ettore Bassi e Karima, che è in collegamento con noi e che salutiamo. Ciao Karima! Ciao a tutti. Benvenuta alla Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema che ama però aprire, sfondare pareti verso il musical quando il musical e il cinema si fondono, come in quest'anno, come in questo caso. Eri una bambina quando Whitney Houston cantava queste cose e probabilmente per chi come te ha poi sognato e abbracciato il mondo del canto, quella cantante e quella canzone sono sempre state qualcosa di ben scolpito nel cuore, no? Assolutamente, io ho scoperto la voce di Whitney Houston quando avevo 8 anni e mi ricordo ancora che dissi a mia mamma: io voglio cantare come questa signora. E quindi, diciamo, lei è stata poi il mio obiettivo, anche la mia motivazione del perché ho cantato, perché io, ascoltando la sua voce, poi io sono rimasta autodidatta fino all'età di 21-22 anni, quindi lei è stata un po' anche la mia insegnante di canto, perché io ascoltavo le sue cose e poi le provavo a rifare, quindi lei veramente è stata presente. La mia musa ispiratrice è stata proprio lei. Senti, di quel film cosa ricordi? Cosa ti era piaciuto? Cosa hai, come dire, ripreso un pochino anche nella tua interpretazione? Allora, la cosa molto curiosa è che io, il film è del 1992, io nel 1992 avevo 7 anni e è stata la mia prima volta al cinema, ho visto The Bodyguard. Quindi è un segno del destino, diciamo. Un segno del destino. Poi ho aperto i suoi concerti in Italia, per cui ho lavorato con il suo produttore, per cui ci sono state delle cose, la vita è imprevedibile, ci sono state delle cose che comunque ci collegano un po', è pazzesco. Io adoro questa donna, adoro quest'artista, devo dire che nell'allestimento del musical ho riguardato il film perché ho fatto un ripassino e da lei ho preso tutto quello che tutti gli atteggiamenti, tutti i modi di fare di una diva, questa donna molto femminile, però con una grande grinta, con una fragilità ma con una grande determinazione, quindi ho cercato di prendere queste cose dal suo personaggio. Senti Karima, hai detto una cosa che ci ha molto soleticato adesso, cioè ho aperto i suoi concerti italiani, quindi hai avuto probabilmente modo anche di, chissà, di parlarle un attimo, di conoscerla. Allora, io ho avuto modo di vederla da molto molto molto vicino, perché eravamo a 50 metri, però lei aveva degli occhialoni neri, stava mangiando e io non ho avuto il coraggio di avvicinarmi e di dirle facciamoci una foto o sono io Karima a presentarvi, per oppure cui... di dirle un giorno io sarò te che... o almeno ci proverò. Senti, ti piace questa vita da musical? Com'è per una cantante come te tutto il resto, la recitazione, il palcoscenico, il dietro le quinte? Devo dire che allora la cosa più bella di tutti è la famiglia che si viene a creare con il cast, con la produzione, perché ognuno mette la propria arte e la propria professionalità per la costruzione di uno spettacolo, quindi incanaliamo tutte le energie in quella cosa. Persone meravigliose, stupende, io sono contentissima, è un lavoro molto molto molto impegnativo, specialmente per chi appunto fa solo concerti, per cui io mi sono proprio lasciata manipolare per quanto riguarda il discorso della recitazione, il ballare e cantare, veramente mi sono messa in gioco e ho gettato il cuore oltre l'ostacolo. Quindi io sicuramente darò il massimo, spero che questo arrivi. Insomma, ieri sera, quando facciamo le prove, comunque le cose rispondono bene, speriamo che piaccia anche al pubblico. Assolutamente, i primi riscontri sono sicuramente stati positivi, allora il pubblico può andare a raccogliere quel cuore gettato oltre l'ostacolo al Teatro Nazionale di Milano per The Bodyguard, il musical con Karima, che ringraziamo per essere stata qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi. Allora, proseguiamo dal musical al cinema da vedere in casa per recuperare film recenti o del passato che valga la pena vedere o rivedere, a partire da quelli in un video. Abbiamo giocato la settimana scorsa con questo film. Oh, lo adoro! Mi sembrate molto grosso. Che cosa? Un grosso fico e mettiti in posa! Un grosso fico. Oh. E si trattava di Trolls, divertentissima fiaba che è piaciuta ai più piccoli, ma con, come sempre, anche la capacità di tenere insieme davanti allo schermo tutta la famiglia. Di Trolls ci hanno risposto per primi, indovinando, Alessandro Comola di Torino ed Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Trolls, che recensiamo insieme agli amici di Fil TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Franco, in saluto radio ascoltatori. Sì, i Trolls sono alti pochi centimetri e vivono felici cantando, ballando e abbracciandosi. Sono una sorta di versione fluorescente dei Puffi, una versione anche un po' drogata, direi. Questo è un film veramente colorato, veramente ipercinetico, che è una cosa che manda in sollucro i bambini, rappresenta un sorprendente cambio di target per DreamWorks, che era avvezza a un'animazione molto meno tradizionale. Qui invece si torna ai numeri musicali e alla favola con morale incorporata. Nella stessa direzione si muove la grafica, strabiliante nel dettaglio, e che qui è restituita da un ottimo riversamento in Blu-ray con extra come scene tagliate e approfondimenti sull'animazione. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana. Un'occhiata ai palinsesti TV invece della prossima, per scoprire cosa recuperare, a partire per esempio dal lunedì 27 febbraio, quando gli Oscar saranno ancora caldi, potete dare un'occhiata alle 23 su Paramount Channel a Viale del Tramonto di Billy Wilder. Sì, siamo ad Hollywood, uno sceneggiatore che però è anche un cadavere che galleggia in una piscina, racconta dalla sua morte la storia di fallimenti e dell'incontro con una senile diva del muto, Norma Desmond. Parliamo di uno dei migliori film della storia del cinema, un film sull'orrore del cinema come assurdo sostituto della vita, con una meravigliosa Gloria Swanson che del cinema muto fu realmente una protagonista, e con giganti di un cinema passato ma più ritornato come Eric von Stroheim e Buster Keaton, che certificano la fine di un sogno. È una requisitoria su Hollywood dall'occhio lucido come non mai di Billy Wilder, pieno di pietas per i suoi personaggi. Insomma, un film imperdibile per chi non l'avesse mai visto, ma da rivedere vedere sempre. Assolutamente. E invece il giorno dopo, martedì 28 febbraio, un film recente di Luc Besson, che a mio modo di vedere avrebbe avuto forse avrebbe meritato forse una diversa considerazione. Stiamo parlando di Lucy, su Mediaset Italia 2 alle 21:10. Sì, la mafia cinese le taglia lo stomaco, lo riempie di una nuova droga sintetica che nella protagonista Lucy si scioglie ed esplode. In questa maniera lei comincia a gestire magicamente ben oltre il 10% del cervello. È un film adrenalinico, ironico e sensuale ed è il ritorno di Luc Besson ai tempi d'oro del suo cinema. Parte da una credenza parascientifica, ovvero cosa succede se potessimo usare più del 10% del cervello, ed è questo il pretesto per un'azione molto fumettistica dove Scarlett Johansson sembra una supereroina degli shonen giapponesi. È un film di autorealismo volgare, a suo modo molto teorico, sembra sempre sul filo di un'onesta parodia, ed è un intrattenimento veramente sfacciato, una sorta di Bignami for Dummies di filosofia zen, ma costantemente a rotta di collo, a suo modo divertentissimo, per me è veramente imperdibile. E allora Lucy di Besson, il nostro secondo consiglio di visione della prossima settimana. Grazie Giulio, un saluto a tutti gli amici di FinTV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Vi ricordiamo, ma questa volta non ce n'era bisogno, che abbiamo giocato con Nel corso del tempo di Wim Wenders, e che settimana prossima vi diremo chi sono i vincitori di questo film in un video. E allora, appuntamento alla prossima settimana, la prima puntata di marzo, per raccontarvi ancora tutto il cinema che c'è anche dopo la notte degli Oscar.